Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Oggi insieme a Marina Milone prosegue il nostro viaggio nella storia dell'economia del mondo. Ieri abbiamo finito il racconto con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la maggior parte dei governi erano decisi a pianificare l'economia. Nello stesso periodo l'India, il gioiello della corona dell'impero britannico, simbolo dell'imperialismo inglese, celebra la sua liberazione. Il padre dell'indipendenza è il Mahatma Gandhi. Il suo modello economico per l'India è una rete di villaggi autosufficienti. Pandit Nehru, nominato primo ministro, intende industrializzare l'India secondo il modello della democrazia parlamentare inglese e della pianificazione statale sovietica. A parlarcene l'economista, membro del Parlamento indiano, Jairam Ramesh. Negli anni 50 l'India era la mecca degli economisti. I più eminenti economisti dell'epoca erano consulenti del governo, che optò per il sistema di crescita industriale gestito dallo Stato. Lo Stato doveva controllare i pilastri dell'economia. Per questa ragione, l'acciaio, il carbone, i macchinari industriali, i beni capitali, l'industria pesante, erano tutti a proprietà pubblica. Nehru ha grande fiducia nella tecnologia. Ascoltiamo l'ex primo ministro indiano Manmohan Singh. Nehru era un politico razionale. Voleva impiegare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per risolvere la piaga della povertà che affliggeva l'India. L'India diventa un modello di sviluppo economico per le nazioni che si sono rese indipendenti da poco tempo. Socialismo, pianificazione, controllo del governo, regole, proprietà pubblica, tutti questi concetti diventano il Vangelo dei nuovi stati. In Africa i popoli credono che il socialismo li affranchi dalla povertà. In Sud America gli stati controllano l'economia per modernizzare le nazioni. Il progresso dei paesi comunisti come Cina e Unione Sovietica è un esempio per gli altri governi. Nel 1950 l'economia di mercato di Hayek è così sorpassata che quando cerca lavoro in ambito accademico una sola università accoglie la sua domanda. Ce ne parla Sam Peltzman dell'Università di Chicago. Chicago è sempre stata una città eccezionale. Al di fuori del pensiero tradizionale. Chicago è isolata anche geograficamente. Questo la condiziona a livello intellettuale e ne accresce l'influenza in molti campi oltre a quello economico. L'Università di Chicago vede aumentare la sua influenza nel mondo accademico. 8 professori e 11 economisti di questa università hanno ottenuto il premio Nobel. Nessuno di noi andava troppo per il sottile. Eravamo interessati alle idee, a discutere. E non avevamo paura di irritare chi che sia. Avete ascoltato la voce di Milton Friedman, all'epoca giovane economista a Chicago e portavoce della cosiddetta scuola economica di Chicago liberista. Ascoltiamo adesso Larry Summers, consigliere economico di Clinton, e Al Alberger della scuola di Chicago. Per molti versi Milton Friedman è stato la bestia nera degli economisti keynesiani, perché sosteneva l'individualismo e il libero mercato e non si preoccupava dell'equità sociale. Noi riteniamo che le forze di mercato siano esattamente queste, semplicemente delle forze, come il vento e le maree. Se le ignoriamo, lo facciamo a nostro rischio e pericolo. Bisogna trovare il modo di disciplinare queste forze a beneficio della società. Questa è la direzione verso cui andare. Delle forze che non vanno troppo contrastate per il beneficio della società, questo è uno dei principi per gli economisti dell'Università di Chicago. Negli ambienti governativi, però, il re dell'economia è sempre Keynes, ancora a 19 anni dalla sua morte, è sulla copertina di Time. Per i keynesiani a Washington l'economia non è una forza della natura, ma un meccanismo sofisticato che ha bisogno di essere armonizzato da tecnocrati come loro. Le teorie di Keynes paiono ottenere il massimo consenso quando John Kennedy, il più aristocratico dei presidenti americani, riceve una laurea ad honorem all'Università di Yale. Ora posso dire di aver avuto il meglio dalle università più prestigiose, l'educazione di Harvard e la laurea di Yale. Per Kennedy, Keynes ha vinto. La battaglia delle idee sembra conclusa. Ciò che ci interessa oggi in ambito economico non è entrare nel dibattito tra ideologie rivali, di cui si discute in tutto il paese, ma occuparci della gestione pratica di un'economia moderna. Quello di cui abbiamo bisogno non sono etichette e cliché, ma di discutere delle questioni tecniche necessarie a far progredire la grande macchina economica americana. Il discorso scritto dal pool di consiglieri economici di Kennedy ricalca le linee guida delle teorie di Keynes. A parlarne è uno dei consiglieri di Kennedy, Robert Solow. Quel discorso significava che avevamo conquistato Kennedy. Avevamo conquistato il cuore e la mente del presidente. Per più di 30 anni l'economia keynesiana sembra produrre solo benefici. L'Europa, il Giappone e gli Stati Uniti registrano una grande crescita economica e un aumento del tenore di vita. Le popolazioni godono di una prosperità che nel dopoguerra potevano soltanto sognare. Intanto Hayek torna in Austria e cade in depressione. Il successo delle economie miste rende le sue teorie sul libero mercato ininfluenti ed obsolete. Ascoltiamolo. La maggior parte delle università non mi vedeva di buon occhio. Sono molti gli economisti che continuano a trattarmi da estraneo. Hayek vive in una città di provincia. La sua esistenza è monotona, ma il mondo sta iniziando a cambiare. Al tavolo del solito ristorante, Hayek legge sul quotidiano che stanno aumentando sia l'inflazione sia la disoccupazione. Viene coniato un nuovo termine, stagflazione. Dopo 30 anni di crescita inarrestabile, l'economia americana entra in crisi. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Alla fine degli anni 60 l'economia americana entra in crisi. Per gli economisti della scuola di Chicago, Milton Friedman è il consigliere particolare di Richard Nixon, mentre a gestire il bilancio statale è George Shultz. Tornando all'indice dei prezzi all'ingrosso, uno dei campi in cui i prezzi stanno aumentando è quello del legname e dei materiali da costruzione. Ma il presidente non ascolta nessuno. Nixon ritiene di risolvere i problemi aumentando la spesa pubblica e, come se non bastasse, dichiara: sono diventato keynesiano. Così il giornalista Daniel Yergin. La sua dichiarazione sconcertò i suoi sostenitori conservatori. Un membro del Congresso gli scrisse: «Presidente, dovrò bruciare tutti i miei vecchi discorsi». E Nixon gli rispose: «Anch'io». Nixon ritiene di dover approfondire la questione. Con i suoi consiglieri economici parte per Camp David per un weekend di lavoro. Dick Cheney, all'epoca, è un giovane collaboratore del presidente. Ascoltiamo lui e poi ancora George Shultz. Ricordo il dibattito in quegli anni durante l'amministrazione Nixon. I consumatori erano convinti che i prezzi dei generi alimentari sarebbero aumentati. Per questo a quei tempi si discuteva di congelare i prezzi. Nixon, sebbene repubblicano e conservatore, opta per il controllo di prezzi e salari. Nixon era un interventista. Oggi sappiamo che sarebbe stato meglio non fare niente, ma allora lui decise di intervenire. Io c'ero e mi opposi a quell'idea. Tenere sotto controllo prezzi e salari ci avrebbe portato un mare di guai. È arrivato il momento di dare una svolta alla politica economica degli Stati Uniti. Dobbiamo combattere la disoccupazione e l'inflazione. Un giorno Nixon citò una frase di Nikita Khrushchev. Khrushchev aveva detto a Nixon che a volte per fare bene il mestiere di statista bisogna fare il politico per un po'. Il problema era che Nixon era disposto a sacrificare i suoi principi per ottenere dei vantaggi politici. Nixon opta per un intervento drastico. Gli elettori approvano la guerra contro i prezzi condotta dal presidente. Nixon viene rieletto con una valanga di consensi, ma l'economia continua a non godere di buona salute. Now I'm a man. L'economia entrò in crisi. Gli imprenditori non riuscivano a coprire i costi. Gli allevatori smisero di mandare il bestiame al mercato e gli avicoltori affogavano i loro polli. Invece di tenere sotto controllo l'inflazione, provocarono la scarsità delle merci. E i prezzi continuano a salire. L'ultima volta che vidi Nixon nella sala ovale insieme a George Shultz, il presidente mi disse: non incolpare George per questa stupida idea di controllare i prezzi e i salari. Intendeva dire George Shultz. Ma io risposi: no, presidente, io incolpo lei. Era la voce di Milton Friedman. Anche l'economia mista inglese è in crisi. Anche l'Inghilterra deve combattere la disoccupazione e l'inflazione. In teoria, il primo ministro conservatore Edward Heath e il suo governo credono nel libero mercato, ma nella pratica cercano di combattere la stagflazione controllando prezzi e salari, proprio come ha fatto Nixon. Lo sciopero dei minatori e la crisi del petrolio mettono in ginocchio il paese. Gli elettori danno la colpa di tutto questo a Heath. Alle elezioni i conservatori escono battuti. Non possiamo lavorare ora che è andata via la luce. Non possiamo accendere i televisori. Keith Joseph, ministro del governo uscente, è un intellettuale fuori dal coro. Le sue intuizioni modificheranno la visione dell'economia e della società non solo in Inghilterra, ma in tutto il mondo. Ascoltiamo il consigliere della spesa di quel governo, Kenneth Baker. Keith si batté il petto e disse che la colpa era nostra, che avevamo sbagliato tutto. E lo fece per davvero. Infatti lo chiamavano il Monaco pazzo. L'economista Keith Joseph approda all'Istituto degli Affari Economici, fondato da un gruppo di spiriti liberi con l'incoraggiamento di Hayek. Con lo zelo del neofita, Joseph inizia a predicare le virtù del libero mercato. Attraverso una serie di saggi sferra la sua offensiva, attacca l'economia mista e sostiene le virtù del capitalismo. Per rivitalizzare l'economia, Joseph sostiene che bisogna correre più rischi. L'adepta più importante di Keith Joseph è una conservatrice emergente, Margaret Thatcher. In Parlamento e in politica, i suoi amici più intimi concordano nel dire che l'influenza di Joseph su di lei fu cruciale. Keith sosteneva e rafforzava le sue intuizioni quando lei ne aveva bisogno. Margaret Thatcher ha una passione viscerale per l'economia di mercato. Aveva letto La via della servitù di Hayek quando era una studentessa a Oxford e ne era rimasta molto colpita. Molti anni dopo, quando diviene la prima donna capo del partito conservatore, Margaret Thatcher sbatte il libro di Hayek su un tavolo dicendo: questo è quello in cui crediamo. Ascoltiamo Ralph Harris del Ministero dell'Economia inglese. Dall'ufficio della Thatcher giunge ad Hayek una richiesta di appuntamento. Lei va a trovarlo. C'è un lungo silenzio. Margaret Thatcher se ne sta lì, seduta, in attesa delle parole del maestro. Se parliamo del movimento di opinione attuale, ora, per la prima volta, si sta muovendo nella giusta direzione. Era la voce di Friedrich von Hayek. Il premio Nobel assegnato ad Hayek è una sorpresa per tutti. La storia sembra dar ragione a lui e non a Keynes. Vorrei dire che quando ero giovane, soltanto i vecchi credevano nel libero mercato. Quando ero un uomo di mezza età, ero praticamente il solo a crederci. E ora Ho il piacere di aver vissuto tanto a lungo da vedere che i giovani iniziano a credere nel libero mercato. È un cambiamento epocale. Come abbiamo detto, l'economia statunitense sta attraversando la sua peggior crisi dai tempi della Grande Depressione. L'industria ha rallentato la crescita, la disoccupazione in aumento, alla guerra del Kippur segue un embargo del petrolio, gli americani si ritrovano a fare la fila alle stazioni di servizio e intanto tutti i prezzi continuano a salire. Gli economisti della scuola di Chicago avevano sempre sostenuto che una rigida normativa statale mantiene i prezzi alti e alimenta l'inflazione. Però non sono più i soli a chiedersi se per vincere l'inflazione non serva proprio una maggiore concorrenza. Sam Peltzman, professore all'Università di Chicago. Che effetto ha emanare norme per regolamentare le linee aeree, l'industria dei trasporti su strada o le ferrovie? Spesso l'unico risultato è un aumento dei prezzi. Invece di favorire la competizione, la uccide. In 1962 of Juliet, Monitor Tower 126, point enter. Yana 43 heavy, runway 32 left at Mike. Please turn left, join Bravo, to Mike 2 and Mike 2 has to move now. Nell'industria dell'aviazione civile è ancora in vigore la normativa emanata durante la Grande Depressione, un classico esempio di capitalismo regolamentato. Ma la deregulation è nell'aria. Stephen Breyer, allora professore ad Harvard e oggi giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, viene incaricato da Ted Kennedy di condurre un'inchiesta per conto del Senato sulla normativa che regolamenta l'aviazione civile. Così lo racconta. Scoprimmo che le compagnie aeree erano sempre le stesse dal 38. Erano tutte grandi società, tra le quali nessuna nuova. Vengono chiamati a testimoniare i rappresentanti del Civil Aeronautics Board. Scoprimmo che il 5% del tempo lavoravano per tenere le tariffe basse e il restante 95% per evitare che le compagnie aeree abbassassero le loro tariffe. Le compagnie aeree erano ovviamente soddisfatte di questo modus operandi. Chiedemmo loro quando era stata l'ultima volta che avevano istituito una nuova tratta. Ma queste norme fanno sì che le grandi compagnie, come la Pan Am, non debbano competere con i nuovi arrivati. La deregulation, con la nascita di nuove compagnie e il fallimento di quelle più vecchie, provoca turbolenza nel mercato e non solo nel mercato. Mio padre era meccanico addetto ai jet della Braniff. All'età di 59 anni scoprì che la sua specializzazione non era più richiesta. Quando la Braniff riaprì, fu riassunto alla metà dello stipendio che percepiva in passato. Quando sei protetto da una certa normativa, non esserlo più è drammatico. Le compagnie aeree sottovalutavano la domanda per le tratte a prezzi più bassi. Ma quando i prezzi calarono, la domanda aumentò vertiginosamente. La scena è pronta per la deregulation dell'economia statunitense e queste idee stanno per farsi strada anche in Inghilterra. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 in America, lo abbiamo detto, è iniziata la deregulation. Poco dopo la stessa cosa avviene in Inghilterra. Il 5% non va bene a nessuno. Otterrete qualcosa con questo sciopero? Certo. Qualcuno lo chiama l'inverno dello scontento. Tutto il paese sembra paralizzato dagli scioperi. Penso che sia uno schifo, come tutti gli scioperi organizzati dagli sporchi sindacati socialisti e comunisti. Scioperano gli spazzini, scioperano gli infermieri delle ambulanze, perfino i becchini sono in sciopero. L'economia è in preda a un declino inarrestabile. Gli elettori votano per un nuovo governo conservatore guidato da Margaret Thatcher. Lawrence Hayek, figlio di Frederick von Hayek, così racconta. Margaret Thatcher fu eletta primo ministro il giorno del compleanno di mio padre. Lui le inviò un telegramma da Friburgo. Grazie, è il miglior regalo che potessi ricevere per il mio 80° compleanno. Qualche giorno dopo la Thatcher gli rispose da Downing Street: caro professor Hayek, sono fiera di aver imparato così tanto da lei negli ultimi anni. Sono determinata a vincere. In questo caso il suo contributo alla vittoria finale sarà stato immenso. Margaret Thatcher. Cercherò di fare il possibile per onorare la fiducia che il popolo inglese ha riposto in me e in ciò che credo. Determinata, secondo alcuni anche troppo, avrebbe rivoluzionato l'economia. Lo spirito imprenditoriale era stato represso per anni, dal socialismo, da tasse troppo gravose, normative troppo rigide e una spesa pubblica troppo alta. La filosofia era nazionalizzazione, centralizzazione, controllo. Tutto questo doveva finire. Ma la Thatcher riduce la spesa, taglia i finanziamenti alle imprese, migliaia di società falliscono, la disoccupazione aumenta. Molti la considerano una donna spietata, raramente il paese è stato così diviso. Gli economisti keynesiani esortano la Thatcher a utilizzare il denaro pubblico come ammortizzatore sociale. Lei li ignora. Coloro che ci esortano a diminuire la pressione, a spendere ancora denaro pubblico per aiutare i disoccupati e i piccoli imprenditori, non sono buoni, compassionevoli o generosi. Ho soltanto una cosa da dire. Se volete fare marcia indietro, accomodatevi. La Lady non torna sui suoi passi. In Inghilterra lo scenario della battaglia è delineato, in America lo scontro sta per cominciare. 1979, negli Stati Uniti la situazione è critica. Il presidente Carter parla di malessere e sfiducia nel paese. La rivoluzione in Iran porta a una seconda crisi del petrolio e alla vicenda degli ostaggi americani a Teheran. Nonostante la deregulation, l'inflazione è a livelli record. I tentativi di Carter di seguire la formula di Keynes attraverso l'aumento della spesa pubblica non portano da nessuna parte. Così Larry Lindsay, assistente di Carter. Jimmy Carter era il maggior sostenitore delle teorie keynesiane, solo che queste non funzionavano. Il rivale di Carter è il repubblicano Ronald Reagan. Reagan ha la stessa filosofia economica di Margaret Thatcher. Sono più di 20 anni che Reagan combatte l'ortodossia keynesiana a favore delle idee di Hayek e Friedman sul libero mercato. Votate per me se credete in voi stessi, se credete nel vostro diritto a controllare il vostro destino e decidere la vostra vita e soprattutto come viene speso il vostro denaro. Il presidente dovrà far pressione sulle imprese, sull'industria e sui lavoratori per cercare di risolvere i problemi creati da troppa pressione dei precedenti governi sulla gente comune. Possiamo togliere la pressione governativa dalle nostre vite. Questa indifferenza nei confronti del disastro economico deve cessare. Gli americani scelgono di cambiare. Reagan diventa presidente degli Stati Uniti. Così Milton Friedman e poi George Shultz. La situazione era questa. L'unico modo per far scendere l'inflazione era per mezzo di una contrazione monetaria delle spese. E questo non si poteva fare senza causare una recessione. Ovviamente nessuno desidera la recessione, ma ricordo che il presidente Reagan disse questa famosa frase: se non ora, quando? Se non noi, chi? The river flows. It flows to the sea. La disoccupazione arriva al 10%. Nessuno si rendeva conto di quanto sarebbe stata dura. Il cuore dell'America, la provincia, sembra in agonia. Ascoltiamo un coltivatore e poi Paul Volcker, allora presidente della Federal Reserve. I tassi di interesse erodono i profitti. È difficile far funzionare la propria impresa. Negli anni 80 i tassi di interesse arrivavano fino al 20% ed oltre. Era un periodo positivo. Poi, quando le cose peggiorarono, in cassa c'erano pochi soldi e i creditori ti costringevano a vendere. Se non li ripagavi, ti obbligavano a liquidare. Era una situazione da cui sembrava impossibile uscire. Se mi avessero detto che nell'agosto del 1979 i tassi di interesse sarebbero arrivati al 21,5%, mi sarei andato a nascondere da qualche parte e mi sarei messo a piangere. Ma siamo sopravvissuti. Ci vogliono 3 anni. 3 anni di rabbia e di sacrifici per milioni di americani. Ma nel 1982 il drago dell'inflazione viene finalmente ucciso. Ascoltiamo ancora Paul Volcker. Quello che è cambiato drasticamente negli anni Ottanta e continua ancora oggi è l'idea che se il tasso di inflazione è alto, spetta alla banca centrale intervenire. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Reagan e Volcker avviano un nuovo corso dell'economia. Sin dal primo giorno abbiamo lavorato sodo per rimettere in sesto le macerie economiche che ci hanno lasciato. Le chiamano Reaganomics e si basano su 4 elementi chiave. A spiegarli è Larry Lindsay. Il primo era una moneta solida. Il secondo, deregulation. Il terzo era basse aliquote d'imposta. E il quarto, una spesa pubblica limitata. Oggi sembra un programma molto convenzionale, ma all'epoca Reagan venne considerato un estremista dai suoi avversari. Non riescono ad accettare che la politica di imposte gravose e spesa pubblica eccessiva è alla radice dei nostri attuali problemi. I tagli alle tasse fatti da Reagan, i più consistenti nella storia, creano un enorme deficit allo Stato. Ma l'economia ha cominciato a marciare di nuovo. Non ci sono dubbi che le misure adottate da Reagan, la diminuzione delle aliquote d'imposta e la deregulation, diedero impulso alle forze costruttive del libero mercato. E in effetti, dall'83 in poi, si è registrata una crescita costante. Intanto nell'Atlantico meridionale, navi da guerra inglesi sono in navigazione. L'Argentina ha strappato le Falkland alla Gran Bretagna. Per riportarle all'Inghilterra, Margaret Thatcher ricorre alle armi. Prima della guerra la sua popolarità era ai minimi storici. La vittoria delle Falkland assicura la sopravvivenza al governo di Margaret Thatcher. Le Falklands la salvarono. Le diedero la sicurezza necessaria a implementare quelle politiche che non producevano ancora gli effetti sperati. La Thatcher puntò tutto sulle Falklands e la sua vittoria accrebbe il suo prestigio non soltanto all'interno del Partito Conservatore, ma anche nel paese, e migliorò la sua reputazione in ambito internazionale. L'efficienza delle industrie nazionalizzate stava diminuendo. Perché avrebbero dovuto essere efficienti? Avevano accesso alle casse del tesoro. La Thatcher vuole rendere le industrie di Stato indipendenti dalle sovvenzioni statali e sottoporle alla disciplina del mercato. Le industrie nazionalizzate cadevano a pezzi, perdevano enormi somme di denaro. I prezzi erano incredibilmente alti, ma non facevano profitti. Stavano prosciugando le casse dello Stato, le tasche dei contribuenti e non facevano gli interessi dei consumatori. Per la Thatcher il vero osso duro sono le miniere e i sindacati dei minatori. Il 75% delle miniere di carbone inglesi sono in perdita. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. In Inghilterra la Thatcher si avvia a privatizzare le miniere di carbone. Ogni anno lo Stato le sostiene con una sovvenzione di 3 miliardi di dollari. I leader sindacali sostengono che le sovvenzioni statali sono ben spese se consentono a 180.000 minatori di lavorare e mantenere le proprie famiglie. I minatori dicevano sempre, e io me lo ricordo bene, che finché avessero avuto le mani avrebbero avuto un lavoro. È una partita storica. Entrambe le parti sanno che 10 anni prima sono stati i minatori a far cadere il governo conservatore di Edward Heath. L'orgoglioso marxista a capo del Sindacato Nazionale dei Minatori afferma che finché ci sarà carbone, nessuna miniera sarà chiusa. The strike action. La questione per i nostri iscritti è molto chiara. O accettare le politiche del governo che causeranno la perdita di 70.000 posti di lavoro, o opporsi a tutto questo e lottare per difendere i loro posti di lavoro, difendere le miniere e difendere la loro dignità. Di fronte alle miniere si organizzano picchetti, la polizia carica, gli scontri sono violenti. I minatori e le loro famiglie credevano in valori che Margaret Thatcher non avrebbe potuto capire. Valori socialisti e cristiani che, da molti punti di vista, spesso andavano insieme. I minatori resistono per più di un anno. Alla lunga, però, cominciano a dividersi. Molti non riescono più a sopravvivere senza stipendio. Lo sciopero è finito. Improvvisamente, lo sciopero terminò. E il sindacato più potente, con il suo leader più combattivo, era sconfitto. Il governo Thatcher mette in vendita uno per uno i nodi vitali dell'economia inglese. L'elettricità, i telefoni, il petrolio, il gas, il carbone, l'acciaio, i treni, gli aerei, perfino l'acqua. In breve tempo i 2/3 delle industrie statali vengono sottratti al controllo del governo e venduti ai privati. Chi avrebbe dovuto controllare i pilastri dell'economia, i governi o i mercati? In Inghilterra la battaglia è finita. Un giorno il ministro degli esteri e il ministro delle finanze di un altro paese mi dissero: non era mai successo che un primo ministro britannico riducesse le frontiere del socialismo. Vogliamo sapere che cosa accadrà, perché se lei riuscirà in questa impresa, altri seguiranno il suo esempio. Fabrizio Galimberti, insomma, tra più Stato e più mercato, l'oscillazione è perenne? Beh, direi di sì, è perenne, ma non come è perenne l'oscillazione dei due bracci di un pendolo. Il fatto è che sia lo Stato che il mercato cambiano nel tempo e nello spazio, cercano di seguirsi, di adeguarsi l'un l'altro, e quindi c'è una oscillazione che deriva sia da questo cambiamento che cavalca latitudini, longitudini, anni e decenni, e sia c'è un'oscillazione che deriva dal fatto che quando c'è troppo Stato poi c'è una reazione per cui le forze del mercato vogliono riacquistare quello spazio che è stato loro precluso e viceversa. Ecco, infatti, ma c'è una ragione, un motivo principale per passare da una politica all'altra? La ragione sta in quello che dicevo prima, cioè quando c'è un eccesso di Stato, allora si inserisce il braccio del pendolo, comincia a oscillare nell'altra direzione, perché ci sono delle forze interne alla società che si sentono minacciate da questa invadenza del Leviatano statale e quindi si cerca di andare nell'altra direzione. Poi quando si va nell'altra direzione, che è quella della deregolamentazione, del lasciare briglia sciolta alle forze di mercato, ecco che anche qui si creano degli eccessi in questa direzione e con le crisi il pendolo ritorna a oscillare dall'altra parte. Credo che ce lo dobbiamo tenere in pratica per tutta la vita. Fabrizio Galimberti, ma alla fine le politiche della Thatcher hanno fatto bene? È una domanda alla quale è difficile rispondere, perché bisogna situarle in quel tempo, in quel momento. Io credo che in quel momento la Thatcher abbia fatto bene. C'è un economista di sinistra, un grande economista dalla schiena dritta, che purtroppo è mancato un paio d'anni fa, Luigi Spaventa, che una volta mi confidò: in Italia ci vorrebbe una Thatcher. Mi pregò di non dirlo, perché venendo da un uomo di sinistra questa qui era un'affermazione molto grossa. Quindi la Thatcher fu un elemento di rottura, perché in effetti il pendolo in Inghilterra aveva oscillato troppo verso lo statalismo e l'economia doveva scrollarsi di dosso molte incrostazioni, e quindi la Thatcher, agitando la borsetta come sapeva fare solo lei, riuscì a cambiare verso, per usare una parola, una espressione che oggi è di moda, riuscì a far cambiare verso l'economia inglese. Ma c'è stato un prezzo da pagare per quelle politiche? C'è stato un prezzo, nel senso che queste politiche sono sempre dirompenti, vengono vengono a scassare degli equilibri che si erano andati formando e sedimentando, e quindi ci fu uno, si scavò, diciamo, un divario nella società fra coloro che erano pro e coloro che erano contro. Il prezzo da pagare sono sempre questi allargamenti del solco sociale e politico, questo antagonismo fra coloro che vedevano quello che la faccia aveva inserito come una macelleria sociale. C'è stata macelleria sociale? Beh, c'è stato, nel senso che per esempio con lo sciopero dei minatori molti hanno perso il posto, le miniere di carbone sono state chiuse e quindi c'è stato una sofferenza sociale che viene naturalmente lenita dai famosi ammortizzatori, ma che intanto lascia dietro una rabbia, una frustrazione che poi può emergere in forme pericolose, che tuttavia sono state assorbite da una società inglese che, essendo una democrazia e avendo dentro degli anticorpi, riuscì poi a metabolizzare questa lacerazione che era stata immessa dalle politiche della Thatcher. E in America invece, un po' lo abbiamo raccontato, ma qual è stato il prezzo delle Reaganomics? Beh, io direi che il prezzo della Reaganomics è un prezzo che è stato pagato qualche lustro dopo, perché la Reaganomics aveva voluto dire maggiore deregolamentazione, aveva voluto dire una cieca fiducia nei meccanismi di mercato, aveva voluto dire un lasciare briglie sciolte alla finanza, e sappiamo che poi queste cose sono state pagate, perché anche se a distanza di tempo si era creato una cultura economica e una cultura di governo che vedeva le regole come qualche cosa che doveva essere minimizzato, e also nutriva un'ingenua fiducia nella capacità del sistema finanziario di regolarsi da solo. Ma con i mutui subprime, che poi sono sfociati nella grande recessione, sappiamo che le cose sono andate diversamente. Questa crisi di oggi deriva forse da lì? Beh, diciamo che la crisi della grande recessione è venuta da lì, poi da noi in Europa specialmente si è inserita la coda velenosa della crisi dei debiti sovrani, che è qualcosa di concettualmente diverso, perché dato che la crisi della finanza ha costretto l'economia a una recessione, poi gli stati sono dovuti intervenire aumentando le spese, diminuendo le entrate, creando deficit e debito, e a questo punto si è creata anche una crisi da debiti sovrani. Ma con una finanza più regolata si sarebbe potuta evitare questa crisi dei debiti sovrani in Europa? Con una finanza più regolata sarebbe stata evitata quella crisi, nel senso che non ci sarebbe stata la grande recessione, quindi non ci sarebbe stata la necessità di espandere i bilanci pubblici fino a creare deficit e debito senza precedenti. Ringrazio Rachele Bonanni, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. X24.